Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Di cosa parleremo oggi, o meglio, che cosa ci riserva la cronaca e l'attualità economico-finanziaria? Bene, l'asta oggi dei bot, o meglio BTP italiani, ma non solo i BTP, i rendimenti sono risultati in calo. Bene, devo dire, anche lo spread che viaggia a 360 punti. Per quello che riguarda gli interventi più significativi, citiamo tra le altre cose quello del ministro delle finanze tedesco Schäuble, che ha detto non possiamo escludere in futuro altri aiuti alla Grecia, ma anche, come i nostri GR vi annunciavano, quello che è il bilancio dei primi 100 giorni di governo, dove è uscita la notizia che forse con la spending review, cioè con andare a vedere tutte le voci di spesa della pubblica amministrazione, forse si potrà evitare il passaggio dell'IVA dal 21 al 23%. Ma la notizia, a mio avviso, più forte, che già c'era ieri, ma era uscita, diciamo, in diretta, riguarda lo stipendio dei manager pubblici. Allora, ci siamo occupati per anni dei manager privati, soprattutto di banche e del mondo della finanza, raccontando che negli anni 70 il rapporto tra top manager e dipendente era di 1 a 75, cioè anche negli anni 50, anche negli anni 60, cioè i Valletta, i Mattioli, i Cuccia e via così, guadagnavano in media 75 volte più del loro dipendente. Siamo passati adesso, dal pre-crisi e anche dopo la crisi, a rapporti che sono a 1,240, però riguardava il settore privato, società quotate, ma non solo. La cosa incredibile è quello che abbiamo appreso ieri in un'operazione trasparente di cui va dato merito al ministro Patroni Griffi e al primo ministro Mario Monti, e cioè persone che hanno sicuramente un alto valore istituzionale, ma insomma, perché il capo di stato maggiore dell'aeronautica deve guadagnare 460.000 euro e Barack Obama 300.000. Vale la stessa cosa per il capo di stato maggiore della Marina, 480.000 euro. Capo di stato maggiore dell'esercito, 480.000 euro anch'esso. Il direttore dei monopoli di Stato, quindi tabacco e non solo, guadagna 482.000 euro per fare il direttore dei monopoli di Stato. Stiamo scherzando veramente? Allora, oggi ci occuperemo dei costi della pubblica amministrazione a partire dai costi dei manager. Come è stato possibile arrivare a queste cifre? Tra l'altro, voglio dire, io ho citato solo alcuni casi veramente palesi, ma mi dovete spiegare perché ci sono tante altre voci. Penso a tutti i componenti dell'autority, va bene, bel lavoro fare lavorare l'autority, ma perché il presidente Calabro deve prendere 470.000 euro per la G-Com Petruzzella, per l'antitrust 481.000 euro, Bortoni, presidente dell'autorità Energia e Gas, 475.000 euro, e poi i direttori generali di questi i componenti vari prendono 396.000 euro a cranio. Insomma, mi sembra tutto obiettivamente folle. Si arriva poi a Massimo Pianese, direttore generale dell'INPS, 322.000 euro, e meno male che dicono di essere pronti a tagliare gli stipendi. Di questo parleremo nella seconda ora, perché ripeto, è un po' come la lotta all'evasione. Ridurre questi stipendi non farà ridurre drasticamente la spesa per la pubblica amministrazione, ma è simbolico, serve a dare il segnale. Questo vale sia per i manager privati, ma soprattutto per i manager pubblici. In apertura invece alcuni casi emblematici della gente comune, come si chiamava una volta, cioè di chi non ha queste cifre ma ha problemi a trovare un finanziamento in banca, nonostante metta a disposizione gestione di un'impresa, di un'attività, di un piccolo esercizio commerciale, metta a garanzia anche terreni, e poi se riusciamo il caso di chi invece è riuscito ad assumere con la crisi e addirittura ha trovato manodopera qualificata grazie alla crisi, perché l'espulsione dal mercato del lavoro ha lasciato a casa molte persone, ma, operai ma non solo, con un'altissima specializzazione. Qualcuno vuole sapere se sono al mese questi soldi, vabbè, adesso io capisco tutto. A me sembra che siano già tanti, 480.000 euro all'anno, con tutto rispetto per il capo stato maggiore della difesa o della marina dell'aeronautica, ma spiegatemi perché non ne può guadagnare la metà, non so, 240 se può fa, anche perché poi ci sono tutto un insieme di vantaggi, l'autista giustamente, i ristoranti e quant'altro, insomma. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Ripeto, gli stipendi non li ha decisi il governo Monti, c'erano anche prima. Monti ha avuto il coraggio di renderli pubblici, di chiedere al suo ministro Patrone Griffi di renderli pubblici. I governi precedenti non li avevano resi pubblici, c'era stata quella norma del governo Prodi che doveva mettere il tetto di 295.000 euro, se non ricordo male. Però poi nessuno ne aveva mai parlato. Sì, ci eravamo occupati delle maxi liquidazioni di Cimoli, che non mi sembra che abbia lasciato l'Italia in uno stato eccesso, o sempre per le ferrovie dello Stato di Catania. Ma insomma, poi alcuni mi chiedono se sono lordi o netti. Ragazzi, sono lordi, ma cioè, ci rendiamo conto? Vi arriveremo al tema, perché poi uno stipendio va commisurato anche chiaramente con il ruolo che svolgi. Allora, il presidente della Consob prende tanti soldi, sicuramente Giuseppe Vegas guadagna 387.000 euro lordi, ma il direttore del Monopoli di Stato guadagna 100.000 euro in più, avendo obiettivamente molti meno incarichi e rischi, cioè, perché se la Consob fa bene il suo lavoro è importante come ruolo. Il Monopoli di Stato, io devo capire che cosa fa di così cruciale per il paese, col massimo rispetto per il suo lavoro. Discorso analogo anche per Manganelli, capo della polizia. Sono tanti 600.000 euro, sono tantissimi, anche perché quello dell'FBI, il corrispettivo, ne prende 180.000 dollari. Ma voglio dire, uno dice il capo della polizia vive sotto scorta, vabbè, non si spiega perché appunto altri componenti dell'autorità antitrust becchino 400.000 euro all'anno. Sono lì. Penso che non va sotto scotto, poi a giudicare dagli interventi. Vedo che continuano alcuni di voi a chiedere se sono al mese o all'anno. Tale è probabilmente la sfiducia nei confronti degli stipendi dei top manager pubblici, che c'è qualcuno che si meraviglia anche o ipotizza perfino che possono essere al mese. La borsa più 1% Milano, più 0,60 Parigi, più 0,80 Francoforte, più 0,12 l'America e invariata Londra. Poco mosso oggi il petrolio a 108 dollari al barile, stabile anche l'oro a 1779 dollari l'oncia. Nuovo record però per la verde e per il diesel. La Shell a 1,820 euro, l'IP e Kuwait, il diesel a 1,759 euro. Tornando alla Grecia, a mio avviso il sondaggio è anche forse troppo buono. Il 70% dei greci sono arrabbiati con la Germania, risentiti con Berlino per le dure misure di austerità imposte dal governo di Atene. Nel frattempo alcuni imprenditori greci hanno comprato pagine dei più importanti giornali economici internazionali, con una pagina che si chiama Give Greece a Chance, e quindi date alla Grecia una possibilità, fate in modo che i nostri sacrifici, quelli del popolo greco, nel quadro del piano di austerità più severo dell'era moderna, non siano stati fatti invano. Oh, vedo una bella notizia, visto che ne stiamo per parlare. Ci scrive un ascoltatore che lavora per una banca milanese e dopo 7 mesi di stretta nella concessione di mutui finalmente ha detto che hanno ricevuto l'ordine di fare impieghi, cioè tornare a prestare i soldi. Speriamo che sia un segnale di cambiamento. Lo speriamo tutti. No, non è vero che se dovessero calare i redditi dei top manager della pubblica amministrazione dovrebbero calare anche quelli dei dipendenti, perché si mette un tetto e basta. Il tetto è lo stipendio del presidente della Corte di Cassazione, 295.000 euro. Oh, se uno non bastano per campare può anche cambiare lavoro, eh. E poi avete ragione, questi sono gli stipendi per l'incarico svolto. In realtà poi ci sono altri generi di consulenze, quindi bisognerebbe sapere il reddito accumulato in un anno, non solo lo stipendio. Torniamo alla borsa, dicevo, molto bene Telecom Italia più 6,60, Intesa più 3, UbiBanca più 3, Mediaset più 2,30, come Unicredit e Mediobanca, il 2,20 lo guadagna Monte dei Paschi, il 2% la Pop Milano e Buzzi Unicem, l'1,80 Exor, perde invece oggi Tenaris, meno 1,40, Salvatore Ferragamo meno 0,90. Il primo ministro, il presidente del Consiglio Mario Monti, il rigore è difficile ma poi genera la crescita. L'economia irlandese sotto la guida del primo ministro Kenny è una buona dimostrazione di quello che anche in Italia noi diciamo spesso ai cittadini, e cioè che le misure di consolidamento di bilancio, le misure di rigore e le riforme strutturali possono essere difficili da affrontare e da sopportare nel brevissimo periodo, ma poi generano effettivamente la ripresa della crescita economica. Così appunto Mario Monti dopo aver incontrato il premier irlandese, come avete sentito. C'è un tema interessante che dice ok, però occorre avere stipendi alti anche nei manager del pubblico impiego, perché sennò se ne vanno tutti nel privato. Boh. Siamo così sicuri? Che nel privato verrebbero pagati queste cifre? Non lo so, chiedo. E poi nel privato uno rischia un po' di più, può far fallire un'azienda, può portare libri in tribunale, può essere incriminato, indagato, insomma questo, cioè, con il massimo rispetto, ripeto, ma il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica che cosa rischia rispetto a un privato? Rischiano i suoi piloti, sì, la vita tutti i giorni. Andiamo avanti, dai. Allora, nel frattempo scopriamo che questo con il rapporto dei primi 100 giorni di governo presentato da Palazzo Chigi, che Mario Monti ha risparmiato, bravo, 43 milioni di euro nei primi 100 giorni, ha ridotto del 92% i voli di Stato, con un risparmio complessivo di 23 milioni e mezzo. Quindi rispetto a prima, in effetti i ministri viaggiano in treno o in altro modo, rispetto a prima i voli di Stato si sono quasi azzerati, varati 8 decreti legge, sbloccati 20 miliardi per le infrastrutture, metropolitane nelle grandi città, reti idriche nel mezzogiorno e nei settori ferroviario e autostradale. Dicevo, noi abbiamo i top manager tra i meglio pagati al mondo, perché insomma... il numero uno di Scotland Yard guadagna la metà del numero uno della polizia italiana, in Olanda il limite è 180.000 euro, Barack Obama ne guadagna 300.000 di dollari, quindi noi abbiamo dei manager pagatissimi, così non ce li rubano all'estero, non ce li ruba il settore privato. Però attenzione che nel frattempo abbiamo la maglia nera per la burocrazia fiscale. No, da 2008 a oggi sono state emanate 189 norme che hanno complicato la gestione fiscale delle aziende, una ogni 7 giorni. Allora, solo 33 le leggi che invece l'hanno semplificata. Praticamente alle imprese la burocrazia fiscale costa 36 giorni all'anno. Ancora due dati e poi abbiamo un paio di notizie su cos'è questa crisi. Il commercio meno 1,1% nel mese di dicembre, a dimostrazione che l'unica cosa che tira in questo paese, non fate battute, è l'export, e che ha permesso alle aziende di respirare, l'abbiamo visto nel settore vitivinicolo e agroalimentare, mentre la domanda interna non c'è, è ferma. Il dato di meno 1,1% sia nell'alimentare che nel non alimentare è il peggior dato dal 2004, male tutti i punti vendita, sia i piccoli che i grandi, ad eccezione, vedi un po', degli hard discount. E questo vale per le vendite di dicembre, ma anche per tutto 2011, un meno 1,3% nelle vendite al dettaglio, che è il dato peggiore dal 2009, mentre la Coldiretti ha fatto sapere che le vendite dirette di frutta e verdura presso i produttori sono cresciute, e anche questo secondo me è un segnale della crisi in atto, del 53%. Pensate che fare la spesa nei mercati degli agricoltori, nei farmers market, sono stati 9.200.000 italiani, per quasi mezzo miliardo di euro, più 66% il valore complessivo. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. La crisi va affrontata con tutti i mezzi, e chiaramente i mezzi possono essere i più diversi. Già quando scoppiò la crisi finanziaria a Wall Street nel 2008 raccontammo delle mogli dei manager fatti fuori, licenziati da finanza, che avendo mariti in difficoltà di identità, proprio chi si buttava sulle droghe, sull'etilismo, così fondarono l'anonima ex manager di Wall Street. La cosa è molto seria invece quando va a toccare poi anche le imprese, è perché ci sono stati, purtroppo lo sapete, gesti estremi di piccoli imprenditori che si sono tolti la vita in questi anni. Allora, partendo da questi casi, la Confartigianato di Asolo e Montebelluna, assieme alla ASL numero 8, la Caritas di Treviso e il Centro Eidos, hanno deciso di promuovere, per venire incontro agli imprenditori, il progetto che si chiama Life Auxilium. Praticamente c'è un team di psicoterapeuti che organizzano dei gruppi di lavoro per vedere come gli artigiani, pensate come siamo messi, come gli artigiani stiano reagendo alla crisi. Hanno scoperto che ci sono i resilienti e i delusi. È partito il progetto, il primo periodo sperimentale inizierà il 2 marzo prossimo. C'è anche un numero verde dedicato appunto a chi si trovasse in profonda difficoltà, a questo punto non più economiche ma proprio esistenziali, dovute alla crisi. Il numero verde è 800 130 131. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chissà se si rivolgeranno lì anche i top manager, no. Poi adesso forse sì, se gli devono dimezzare lo stipendio, che lo porteranno a 300.000 euro massimo, forse il numero verde servirà anche a loro. Ma attenzione, questi sono casi veri, casi drammatici, e vorrei partire da questo perché continua il nostro viaggio negli imprenditori, anche artigiani, anche piccolissimi, che quando vanno in banca vivono un mondo diverso da quello che racconta ogni tanto l'ABI, quando ci dice, ieri sentivo Sabatini a Porta, che diceva il direttore generale dell'ABI, il nostro ospite più volte, ma insomma noi abbiamo aumentato il credito. Allora, vediamo un po'. Michele Maestri, buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, e grazie anche a Guido Cortese. Noi di solito, mi sente Cortese, mi sente? Eccomi qua, buonasera. Allora, Maestri, noi di solito ospitiamo in questa fascia economisti, analisti e quant'altro. Invece, volutamente, abbiamo preso due casi che voi ci avete segnalato. Tra l'altro, scrivete a Focus Economia, @radio24.it, c'è anche il sito Facebook, casi veri, mi raccomando, reali, concreti, onesti, di incomprensibili difficoltà opposte dalla banca, che fanno venire in mente un mitico passaggio di un film con Roberto Benigni, Tu mi turbi. Lei è venuto qui non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Dettoli! Lei non mi vuole dare 100 milioni! Ma lei va a contare al suo nome, dottor Dio d'aiuto! Lei si contraddice! No, non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni! Perché se avessi 1 miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo! Certo! Ah sì, eh? Certo! Ma se avessi 1 miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni! 200! Tenga, 300 milioni! Qui! Tenga, non li voglio neanche, me ne resta 700! Grazie tante! Non li voglio! Li metta in tasca! Non li voglio, li metta in tasca! Se c'ho 1 miliardo mi dà 100 milioni! Allora, se io ho bisogno di una melanzana! Devo andare dall'ortolano, devo avere 1 miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano! Ce l'ha lei 1 miliardo di melanzane! Mai! Né di pesche, bene, di quello che c'ho bisogno! Direttore! Ma dove siamo arrivati? Allora, Guido Cortese, perché poi lei ci deve lasciare un po' prima. Lei dov'è che abita? Vicino a Torino, quasi Torino, diciamo. Allora, mi dica una cosa, è un caso emblematico, anche se non è una richiesta da imprenditore. Lei di che cosa aveva bisogno e che cosa poteva offrire come garanzia alla banca? Ma in questo momento devo costruire una casa e di conseguenza cerco un prodotto che si chiama mutuo edilizio o stato avanzamento lavori. Quando si trova in questa situazione, normalmente si va in una banca, si offre come garanzia il terreno e gran parte delle banche fino a un po' di tempo fa davano questo prodotto con delle condizioni ovviamente di spread e di prezzo, insomma. Adesso non è così, cioè più delle volte invece chiedo e questo prodotto è sospeso oppure addirittura non fa più parte dell'elenco dei mutui disponibili. Allora proviamo a prendere le parti della banca, vediamo se sono capace. Lei è un lavoratore precario, ha un lavoro saltuario? No. Assolutamente no. No, che tra l'altro in questo paese diventa una colpa, poi ci si chiede perché i giovani restano a casa con i genitori, ma lasciamo perdere, non voglio polemizzare. Quindi lei ha un lavoro di che tipo? Sono un impiegato da più di 17 anni. Ma assunto a tempo indeterminato? Tempo indeterminato. Questa cosa molto monotona del posto fisso. Vabbè. è andato in banca e cosa ha detto? Cosa ha offerto alla banca? Perché io come banca non è che... Quanto ha chiesto innanzitutto? Cortese? Allora, su un mutuo di 25-30 anni, un importo più o meno di 230. Mila euro. Esattamente. Quindi a 20-30 anni, che cosa offriva come garanzia? Il terreno naturalmente. Ma il terreno li vale 230, no? Il terreno, nei mutui edilizi si dà il terreno come prima ipoteca, vengono fatte due pratiche, la prima è all'erogazione e poi a stato avanzamento lavori è proprio l'edificio che concorre al valore finale dell'oggetto che si viene poi a ipotecare successivamente. Allora, lei però magari ha difficoltà a coprire le spese fino al completamento dei lavori, chiedono. Sì, questo... Le banche normalmente chiedono qual è la propria disponibilità per la parte, diciamo, per una parte delle spese. Ovviamente c'è una disponibilità, viene dimostrata attraverso estratti conti e quindi si va a chiedere soltanto un delta, che è quello che serve per concludere i lavori. Ok, e prima queste cose gli venivano date. Mi dice che... Che tipo di risposta ha avuto, perché magari potevamo cercare anche qualche banca in più. Delle volte, insomma, noi andiamo in una o due banche. Sì. No, io più o meno ne ho vista una quindicina, me ne mancano ancora un paio e spero di avere delle buone risposte. Per adesso le uniche tre risposte positive sono delle grandi italiane, che sono Intesa e Unicredit, a condizioni, vabbè, non favorevoli, non interessanti, e un'altra che è una banca tedesca. Per il resto le altre No, questa me la devi ridire. No, visto che c'è un ascoltatore che dice che io ho un furore moralistico tipico di un calvinista. Dove cavolo è che me lo sono perso? Ah sì, perché sono discendente di pastori calvinisti trasferitisi dalla Svizzera nel Veneto. Bah, complimenti, io non ho mai capito. No, quelli fossero in senso buono, insomma. Le mie discendenze, grazie a lei per avermelo chiarito. Ma quali sono le due banche che le hanno offerto qualcosa? Allora, sì, la Intesa e San Paolo e la Unicredit e la terza è una banca straniera, che è la BHV. Vabbè, allora tutto bene. Nel senso che ovviamente sono prezzi non concorrenziali con quelli delle banche straniere che in questo momento hanno ritrattato, mi hanno ritelefonato e mi hanno detto non siamo più disponibili, cioè di fronte a una domanda accettata mi hanno poi richiamato a gennaio dicendomi che mi dispiace, non è possibile. Allora, intanto qualcuno di Intesa San Paolo sta rispondendo, vedo molti bancari all'ascolto, diversi messaggi, ma di dipendenti di Intesa San Paolo, che se il terreno è già suo può andare in Intesa San Paolo e loro il mutuo, e lei me l'ha appena chiarito, no? Sì, esatto. Ma ci sono un paio di banche, tanto le dico io così le levo da ogni imbarazzo, UbiBank e una BCC, sì, che le hanno fatto un'offerta bellissima, me la dica. Sì, di fronte alla richiesta di una garanzia, quindi mutuo a tasso variabile con tetto, mi hanno chiesto di opzionare con un derivato. I derivati? Con un derivato? Cioè lei doveva opzionare con un derivato? O un future? Bellissimo. Un future, sì. Della serie le lezioni della storia si imparano rapidamente. Quindi il mutuo sale, è stato avanzamento dei lavori, alla fine l'abbiamo risolto forse con la tedesca BHV, con Intese, forse con Unicredit, alla fine questa è la situazione. Sì, sicuramente il prodotto migliore, come ho detto non lo sono ancora certo perché sarà fra una settimana, può darsi che la banca etica sia in grado di fornire un prodotto più concorrenziale, però diciamo che sono poi soltanto quattro, di fronte al pluralismo alla fine si è poi monopolisti, ecco. Ok, allora qualcuno scrive, bisogna chiedere, bisogna essere credibili, non si può chiedere cifre folli, ma è molto folle la sua cifra, no? Chiedo perché io non ho mai dovuto costruire una casa su un terreno, mi dica. Ma tolto il prezzo del terreno, che ovviamente è già di proprietà, si tratta di costruire una casa, forse anche soltanto di un piano e mezzo o di un piano soltanto, parlando di una casa di classe energetica di un certo livello, perché oggigiorno non è che uno va a costruire una casa... Ma di quanti metri quadri deve farla sta casa, cortese? Siamo sui 120. Vabbè, mi sembra insomma la cifra... Però appunto con ovviamente il fotovoltaico, perché oggigiorno è quasi obbligatorio, solare, cioè una casa di classe A o A++ addirittura, ecco. Allora, io le auguro, cioè, la sua segnalazione ce l'ha piaciuta, perché quando ti chiudono la porta con un terreno e una casa da edificare per un mutuo di quel genere, chissà, stato avanzamento lavori, abbiamo preso paura. Per fortuna, proprio in queste 24-48 ore, lei ci ha comunicato che qualcosa si è mosso e speriamo che vada a chiusura. Sarà, non so se portiamo bene, magari, visto che dicono che portiamo sfiga sui mercati, magari portiamo bene sui mutui. Cortese, resti pure con noi, io adesso il metro la pubblicità, ma restino con noi anche Michele Maestri, e l'uomo su cui punto moltissimo per darci una buona notizia, perché ci ha raggiunto anche uno dei titolari della elettromeccanica Cuprum, Mirko Costa. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. In attesa ancora 4 minuti, metro pubblicità, 349-238-6666 per gli sms, e poi facciamo anche la borsa. ...17.40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo che molti bancari, anche l'orario, stanno scrivendo. Allora, primo punto, non sappiamo quant'è la rata, perché ancora, da quello che abbiamo capito, ci ha appena spiegato Cortese, lui ha ricevuto un'apertura negli ultimi giorni, tra l'altro, a segnalare che forse negli ultimi giorni qualcosa si sta muovendo da parte delle banche che abbiamo ricordato. Secondo aspetto, molti di voi fanno notare che, attenzione, quando si fa un mutuo a tasso variabile c'è sempre un derivato. È vero, però da quello che ci ha raccontato Cortese non si trattava del, adesso non mi ricordo se si chiama plan vaniglia, qualcosa del male. Gli è stato detto o fai così o non ti apriamo il mutuo, quindi è una cosa leggermente diversa. Ma vorrei passare da Cortese, perché voglio dire, poi io capisco che la gente si arrabbi, i bancari si arrabbino e quant'altro, ma non possiamo continuare a raccontare la vita per dati aggregati. Poi quando tu vedi che uno chiede 200 euro, lo stipendio del signor Cortese, 3.600 euro netti con la moglie. Allora, vorrei sentire l'esperienza anche di Michele Maestri, che invece è l'esperienza non di un privato che deve costruire una casa su un terreno di sua proprietà, da lavoratore dipendente a tempo indeterminato, ma quale esperienza, Maestri? Buonasera Barisoni, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Guardi, io ho chiamato appunto perché dopo aver sentito varie volte alla sua trasmissione che le banche concedono prestiti, concedono credito, eccetera, eccetera. Io invece, come esperienza da imprenditore qui nella zona di Parma, io chiamo precisamente, devo invece verificare che non è assolutamente così, ma proprio lo posso dire palesemente provato sulla mia azienda. Allora, mi racconti lei che cosa fa? Lei lavora in un'attività piccola, no? Sì, diciamo che sono quelle più diffuse sul territorio, la classico bar, tabaccheria, con appunto due licenze, due attività. E avevo avuto l'esigenza, dopo tanti anni che abbiamo lavorato con la stessa banca, abbiamo avuto l'esigenza di chiedere, diciamo, un piccolo prestito sul conto corrente, perché appunto un po' la crisi, un po' i margini che si stanno sempre più diminuendo, e questo sfido qualsiasi imprenditore a dichiarare appunto la veridità di queste parole. Abbiamo chiesto un piccolo mutuo in banca, una cifra quanto? Si parlava di 15.000 euro, ecco, una cifra del genere. E l'ha chiesto alla sua banca? Alla mia banca, sì, Barisoni, perfetto, con la quale abbiamo un rapporto da 10 anni. Abbiamo sempre rispettato qualsiasi pagamento, siamo sempre stati dei clienti, però appunto... Prova a fare bancario, anche se avete capito che mi riesce molto male, soprattutto i bancari l'hanno capito, ma insomma, lei perché ha chiesto questi 15.000 euro? Era in ritardo con i pagamenti ai fornitori o voleva fare un investimento? No, ma ragioni perfetto, non era per un investimento, diciamo, durevole, era soltanto il normale funzionamento dell'attività quotidiana, dell'attivo circolante in termini tecnico dell'azienda, perché purtroppo, le ripeto, l'incalzare delle tasse, spese generiche e i margini sempre più ristretti per quel che riguarda il tabacco, che sono irrisori, e invece per l'attività... Mi dica com'è andata? Guardi, purtroppo abbiamo avuto una risposta subito negativa, poi dopo piano piano, con insistenza, ci hanno accordato un fido di 10.000 euro, è una cifra veramente irrisoria, questo penso che lo capiscano tutti, anche i bancari all'ascolto, e nonostante questo comunque è un mutuo concesso per 6 mesi, diciamo, tenuto in osservazione, mi hanno detto, appunto per una cifra che è ridicola. Ma la tabaccheria è di sua proprietà? Sì, Barisoni, sia la licenza che la licenza del bar, e anche addirittura i buoi del bar, cioè è tutto di nostra proprietà, quindi voglio dire, penso che meglio di noi non ci sia un altro cliente, ecco. Ma che lei sappia, nella sua zona, i suoi colleghi appunto che gestiscono bar, tabaccherie, ristoranti, hanno avuto maggiori facilità? Cioè magari lei ha sbagliato a stare in quella banca lì per 10 anni? No, guardi Barisoni, purtroppo diciamo che il sentore è questo, cioè qualsiasi banca ha molta difficoltà a concedere anche piccoli prestiti, e addirittura, se non li concede, chiede a chi ha già dei mutui, dei prestiti sul conto corrente, di rientrare assolutamente, come è successo a un mio collega, sempre della città di Salso Maggiore Terme, che si è visto in pochissimo tempo chiedere di rientrare dal fido. E le dico, la nostra situazione adesso è molto molto precaria. Molto. Ma lei ha un dipendente, perché voi quattro, i familiari, lavorate lì, però avete anche un dipendente, il dipendente lo tiene? Perfetto. Guardi, io cerco di fare il possibile, però se mi vedo costretto, cioè se non vedo altra soluzione, mi vedrò costretto a purtroppo prendere l'iniziativa di licenziarlo, ecco. Cioè sono scelte difficili, però purtroppo altre soluzioni non ci sono. Però ecco, volevo far notare che tutte le volte sentiamo alla radio o in televisione che le banche hanno ricevuto anche dalla BCE all'1% questi soldi, che poi invece non riversano, Barisoni, sul tessuto produttivo, ecco. E poi, se mi permette, volevo anche specificare il tasso a cui me l'hanno fatto, che appunto è un 4,15, che è un tasso che tiene presente dello spread, cioè diciamo del fondamentale di rischio tra le banche, che appunto non si fidano a prestarsi soldi, quindi ecco, cioè, quindi questo per far notare che loro, le banche, hanno ricevuto all'1% il tasso che pagano la BCE, però poi lo girano a noi al 4,15 e nonostante questo, cioè voglio dire la forbice è abbastanza alta, nonostante questo hanno anche qui difficoltà a elargire prestiti, le ripeto, di una cifra irrisoria, 10.000 euro per 6 mesi al 4,15% con i BAD di sua proprietà, complimenti, perché questo si chiama valutazione del credito. Qual è la banca? Guardi, la banca è la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Purtroppo io devo dire, Barisoni, che cioè io sinceramente mi sono trovato molto così, un po' allibito, rattristito, perché noi ci siamo sempre comportati bene con questa banca, che appunto lavoriamo da 10 anni, loro quindi ci conoscono da 10 anni, ci conoscono da tempo, sanno benissimo sì, chi siamo. Come... No, ho capito, è chiaro. È tutto chiaro, purtroppo. Grazie anche a lei, quindi grazie anche a Michele Maestri, in bocca al lupo a lei, ma soprattutto al suo dipendente Maestri. Fate il possibile per tenerlo. Mirko Costa, mi aiuti lei a risollevare, diciamo, questa depressione che mi sta cogliendo, perché dopo devo occuparmi degli stipendi del capo di stato maggiore dell'aeronautica, della difesa, ma anche del direttore del monopolio di Stato, che ha un lavoro ad altissimo rischio, ecco perché guadagna 480.000 euro. Allora, c'è un ascoltatore che mi ha scritto che il centro riabilitativo dove porta sua figlia, per l'età evolutiva, dove porta sua figlia 4 volte a settimana, è in grave difficoltà economica. Una mensilità di questi tizi, li chiama, potrebbe garantire le spese del centro per almeno 6 mesi. Esatto. Allora, intanto ci scriva, perché noi quando riusciamo e vediamo che c'è una situazione nel settore pubblico di difficoltà, proprio come accade con l'ospedale Santa Lucia, se non ricordo male, di Roma, per bambini, centro di riabilitazione, cerchiamo di intervenire, dopodiché appunto usiamo i soldi per il pubblico e non per il privato. Mi aiuti, Costa? Cosa voi avete guadagnato dalla crisi? Mi dica solo sì, poi il resto lo facciamo dopo il traffico. Ma secondo me sì. Oh, oddio, evviva, fra un po' metto le campane, traffico, e poi mi racconto come avete fatto. Allora, mentre vedo molti bancari che dicono no, ma guardi che bisogna stare attenti, ho capito, ma un conto è respingere una richiesta, mi riferisco all'ultimo caso della tabaccheria, certo che se evade il fisco fa bene alla banca dire no caro, tu dichiari una cifra troppo bassa e non ti posso prestare i soldi, a meno che... però occorre anche motivarle queste cose, non è semplicemente che si possa dire no, te ne diamo 10.000 per 6 mesi al 4,80 per... Vabbè, comunque, Mirko Costa, perché avete guadagnato dalla crisi? Ma buonasera a tutti. Ma lei è uno dei titolari di elettromeccanica Cuprum, 3 milioni e mezzo di fatturato, 34 dipendenti, età media 36 anni, giusto? Perfetto. Noi stiamo raccogliendo i frutti, a mio avviso, di anni di sacrifici e di investimenti a discapito di facili guadagni, e con la crisi, quando la concorrenza forse è stata spiazzata dal fatto che non aveva l'appoggio bancario, non è riuscita a reggere il colpo, noi forse ecco, siamo emersi e siamo riusciti a sopravvivere in questo mercato qui, sfruttando delle nuove opportunità, investendo in nuovi mercati, non stando lì ad aspettare sicuramente l'edilizia o gli aiuti statali o della banca. Ecco, questo... Allora, ma voi avete anche assunto quest'anno, cosa incredibile, cioè con la disoccupazione che va ai massimi dal 2004, che quella giovanile che è record, che batte anche quella, no, dopo la spagnola è record europea, voi avete assunto? Noi abbiamo assunto l'anno scorso, noi il nostro massimo l'abbiamo raggiunto nel 2010, siamo passati da 23 persone a 45 nel giro di pochi mesi. Naturalmente, non lo nascondo, non è che non inventiamo l'acqua calda, abbiamo sfruttato molto le energie di tipo temporaneo, tipo interinali, queste cose qui. Siamo riusciti però l'anno scorso a consolidare una parte di queste risorse, portando il gruppo ad una situazione di personale a tempo indeterminato di 34 persone, che insomma per la realtà nostra e la realtà in cui viviamo a Belluno direi che è un fatto quasi storico. Ecco, tra l'altro, quando avete visto che avete dovuto fare così tante assunzioni, 31 assunti con contratti a tempo indeterminato. Sì. Mamma mia. Lei, tutti le toccheranno la schiena, o no, Costa? Sì, io mi tocco altro, anche perché... No, Costa, no, no. Per favore, inizio, stiamo mantenendo... Ecco, mi dica. Le dirò, da un lato c'è molta soddisfazione da parte nostra, da parte della famiglia, perché comunque questo è il risultato veramente di sacrificio che c'è stato negli anni e di una visione imprenditoriale davvero importante. Quindi stiamo lavorando con dei gruppi internazionali. Però mi dica una cosa, voi siete riusciti anche a trovare addetti qualificati, perché nel frattempo gli esuberi e la disoccupazione erano aumentate, avete trovato anche manodopera buona, di ottima qualità? Di ottima qualità, che ha, diciamo, anche contribuito ad accrescere la professionalità dell'azienda, sì, sicuramente. E le banche con voi come si sono comportate? Così chiudo il cerchio. Ecco, le dirò, io ho sentito i discorsi dei signori prima di me e sicuramente rispecchiano la realtà, soprattutto per quanto riguarda la chiusura dei rubinetti da parte delle banche. Nel nostro caso, posso dirle, la nostra è un'azienda patrimonializzata, quindi è facile che le banche vengano a dirci: avete bisogno di soldi? Sì, tanto comunque li abbiamo. Abbiamo dei capitali che possono poi coprire. Il problema è nei confronti dei nostri clienti, perché abbiamo in questo 2012 stiamo entrando in difficoltà perché non riusciamo a chiudere dei contratti interessanti che abbiamo in mano, perché i nostri clienti, anche clienti importanti, non percepiscono finanziamenti da parte delle banche. Quindi questa è la realtà. Se da un lato le dico, mi scusi, sui piccoli impianti, piccoli risparmiatori, quelli che hanno a che fare con banche, sì, tipo crediti rurali, hanno facilità di accesso al credito, 10, 15, 20 mila euro, sì, sui grossi impianti, parlo anche di impianti fotovoltaici, non è esattamente così. Grazie, devo chiudere veramente, grazie Mirko Costa che ci ha messo un po' di ottimismo, poi lo rinviteremo perché vorrei capire anche un po' meglio le strategie aziendali, visto che possono essere anche da esempio. Grazie a uno dei titolari della Elettromeccanica Cuprum, GR, poi la borsa e poi gli stipendi dei top manager dai 300.000 euro in su, mentre i fondi per il welfare languono. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, dopo aver ascoltato dei casi a mio avviso emblematici, alcuni bancari contestano, insomma, privati, cittadini che hanno chiesto un prestito in banca, ma anche un caso virtuoso di chi con la crisi è riuscito a guadagnare, ma segnala non un problema lui con la banca perché è ben patrimonializzato, ma dei suoi fornitori con la banca e dei suoi clienti con la banca. Rapidamente la borsa, perché vorrei passare agli stipendi dei manager della pubblica amministrazione italiana, dei top manager, adesso ci arriviamo. Tenaris meno 1,60%, Generali meno 0,70%, Salvatore Ferragamo meno 0,60%, come Luxottica e Finmeccanica meno 0,40%. Oggi la borsa la faccio io, dovrete accontentarvi, mentre Telecom Italia più 6,80%, i conti influiscono in maniera positiva, più 6,80%, Intesa San Paolo più 2,90%, Mediobanca. Tra l'altro tutto il settore bancario oggi è andato bene, ieri alcune flessioni, qui ha pesato positivamente l'asta dei titoli italiani, 3 miliardi collocati oggi con soprattutto rendimenti in calo. Io lo spread oggi forse non ve l'ho ancora dato, è a 360 punti. Ancora per quello che riguarda tra l'altro l'intero ammontare dei BTP collocati dal Tesoro è stato al 3,19% il tasso, tra l'altro era il 3,70% a gennaio. Comunque andiamo, e anche sui CTZ a 3 miliardi collocati al 3% contro il 3,76% di gennaio, 70 punti base di differenza, non sono poca cosa ed è una buona notizia, cioè stiamo pagando meno per trovare creditori del debito italiano, quindi per trovare compratori del nostro debito. Dicevo, bene le banche su questa notizia, e quindi anche Mediobanca più 2,30, Unicredit più 2,20, Ubibanca più 2,20, Popolare Milano più 2,20, più 2%, scusatemi, anch'essa. Mediaset oggi rimbalza, aveva perso abbastanza in borsa sui conti della controllata spagnola. Su Tenaris vedo già dei messaggi, sono presi di beneficio, è andata molto bene ieri, e così come archivierei come presi di beneficio, quindi guadagni e vendite per portare a casa il guadagno, il calo di Finmeccanica meno 0,38%. Le generali come sono andate? Meno 0,70%. I premi vita sono scesi di oltre il 9%, oggi Generali ha fornito i dati. I premi lordi complessivi del gruppo Generali sono ammontati a 69,2 miliardi, meno 5,5%. Il premio danno ha raggiunto quota 22,8 miliardi, più 3%. I premi vita meno 9% a 46 miliardi. Comunque si confermano le Generali il gruppo leader nel segmento dei premi vita in Europa, 42 miliardi di raccolta. Tra l'altro segnalo che ieri è arrivata a ritardo, c'è stato anche un buon dato da parte di Piaggio, l'utile è cresciuto a 47 milioni, di ricavi più 2%. Chiudo con i migliori e i peggiori perché voglio arrivare presto al prossimo tema. Premafin finanziaria continua a correre, sia Premafin che Milano Assicurazioni anche. Premafin finanziaria più 23,44%, AG Capital più 9,50%, Neurosoft più 8,20%, fronte opposto invece Banca Carige meno 7%, Trevi finanziaria meno 11,90% e poco altro, investimento e sviluppo meno 5%, ROS meno 4,65%, l'euro a quota 1,3460, quindi rafforzamento. L'America, che chiaramente è ancora aperta, guadagna lo 0,20%. E adesso apriamo una pagina, spero il meno populista possibile, il meno moralista possibile, ma il più scandalizzato possibile, perché veramente quello che abbiamo scoperto ieri, grazie all'iniziativa di Mario Monti e grazie a quello che ha fatto poi il ministro Patrone Griffi, ha dell'incredibile. Mi riferisco agli stipendi dei top manager italiani. E allora vorrei usare come base oggi una canzone di Caparezza, se ce l'abbiamo, su chi è l'eroe. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe perché lotto tutte le ore, sono un eroe perché combatto per la pensione, sono un eroe perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe straordinario tutte le sere, sono un eroe e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere, sono un eroe. Allora, io non so cosa si debba fare nella vita, visto che Caparezza canta sono un eroe al muratore che sopravvive a tutto, per guadagnare 621.000 euro se non essere il capo della polizia italiana. Peccato che il capo dell'FBI ne guadagni 150.000 di dollari. E giustamente qui andiamo, dite, sul populismo, non lo so, però un ascoltatore dice, ma insomma le auto della polizia sono senza benzina e il capo della polizia guadagna 621.000 euro lordi l'anno, più gli altri redditi eventualmente accumulati, che questo è solo lo stipendio da capo della polizia. E poi le carceri versano le condizioni in cui sappiamo, però Franco Ionta, capo dipartimento amministrazione penitenziaria, 543.954 euro lordi all'anno. Vincenzo Fortunato, capo di gabinetto del Ministero dell'Economia, 536.000. E poi quelli che mi fanno più impazzire di tutti. Allora, il direttore dei Monopoli di Stato. Il direttore dei Monopoli di Stato si chiama Raffaele Ferrara, 482.000 euro lordi per fare il direttore dei Monopoli di Stato. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che ho capito, ma mica è lui che combatte poi, no? Allora, 481.000 euro anche per Giuseppe Vallotto, 481.000 euro esatti anche per Bruno Branciforte, capo di Stato Maggiore della Marina. 460.000 euro per il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Avanti. Il presidente degli Authority, Petruzzella, presidente antitrust, 480.000 euro. Agicom, Corrado Calabrò, 465.000 euro. Per Paolo Bortoni, autorità energia e gas, 475.000 euro. Dice l'Ocse che anche il tetto di 295.000 euro, cioè quello del primo presidente della Corte di Cassazione, è il più alto tra i paesi occidentali. Quindi abbiamo la pubblica amministrazione più efficiente, giustamente, e gli stipendi più alti per i loro top manager. Sono un eroe. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, illuminami tu. Buonasera. Buonasera, ciao. E grazie anche al professor Gustavo Piga, che avevamo avuto ospite per gli ultimi minuti di venerdì scorso. È piaciuto molto, professore. Come professore, non so, come uomo, anche perché non la si vede in TV, in radio, e l'abbiamo rinvitato. Buonasera anche a lei. Buonasera, come sta? Bene, grazie. Lei me lo chiede sempre, è uno dei pochi. Allora, Gianni, ma com'è sta cosa che, con tutto rispetto per Manganelli, sì, poi c'è anche Befera, Equitalia, più, 300.000 euro più altri 150.000 euro di guadagno, Befera come agenzia delle entrate 300.000 euro più altri circa 150.000 euro di guadagno come Equitalia, com'è possibile che si sia arrivati a queste cifre? Un piccolo grande mistero. Cioè, devo dire, abbiamo bastonato, secondo me giustamente, i top manager delle società private, perché guadagnano 250 volte il dipendente, mentre negli anni 60-70 era solo 70 volte, i bonus e quant'altro. Abbiamo fatto la lista di tutti i grandi amministratori delegati di questo paese, ma uno potrebbe dire che almeno lì sono privati, teoricamente c'è un controllo del consiglio di amministrazione, e rischiano, perché se la società poi fallisce o fa qualcosa, rischiano anche legalmente. Ma che rischia il direttore generale del monopolio di Stato, che è appunto un monopolio? Beh, hai ragione, il direttore generale dei monopoli è appunto, come dice, un monopolio. Tra l'altro è un settore, non lui personalmente, ma alcuni suoi strettissimi collaboratori, questi giorni sono stati condannati a pagare delle multe importanti allo Stato, e anche il predecessore Giorgio Tino, quindi augurando a Raffaella Ferrara di non avere mai questi problemi, per lo scandalo ad esempio delle slot machine, perché queste macchine videopoker erano staccati dal contatore che doveva registrare le giocate per le tasse, eppure i controllori, cioè i direttori dei monopoli precedenti, si erano distratti stranamente. Ovviamente anche 10 società sono state... Però dico, cioè non c'era un tetto, esatto. Prodi aveva messo un tetto, se non ricordo... Sono anni che si parla di un tetto, ci aveva provato Prodi, poi mancava sempre l'ultimo atto, l'ultimo miglio, potremmo dire, no? L'ultimo metro. Poi ci ha provato anche durante un governo Berlusconi a rimettere lo stesso tetto, e io spenderei due parole per questa sorta di figura mitica, che è il primo presidente della Corte di Cassazione, ovviamente il quale, potremmo dire, a sua insaputa viene sempre preso come il parametro di riferimento. In questo momento è un signore, un magistrato molto rispettato, si chiama Ernesto Lupo, ma questo è solo per la cronaca. Allora, il suo stipendio viene preso come riferimento. Quant'è il suo stipendio? Si dice intorno ai 300.000 euro, poi questi tetti non riescono mai ad essere applicati. In realtà, e questo secondo me è un altro aspetto piuttosto sconfortante su quella che è l'efficienza, perché poi questi stipendi certamente alti rispetto a moltissimi lavoratori vanno confrontati anche con quella che è l'efficacia e l'efficienza dell'apparato pubblico, che credo sia, tranne qualche caso, agli ultimi posti. Ma anche se fosse l'apparato, no scusami Gianni, ma anche se fosse l'apparato più efficiente del mondo, a 295.000 euro lordi, possono bastare. C'è però un'obiezione che fanno alcuni, dicono: beh, se volete che i migliori manager restino nella pubblica amministrazione, bisogna pagarli tanto, bisogna pagarli come privato, se no questi vanno, scappano nel privato. A parte il dubbio, però giro la domanda al professor Piga, la risposta dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche, sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe. Tutte le sere sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere, sono un eroe. Allora, per noi che siamo populisti e qualunquisti e moralisti e dolciniani, come detto, questi sono i veri eroi, cioè quelli che tirano a campare fino a fine mese e si fanno una cosa grande, molto grande. Però, professor Piga, lei mi deve dire, cioè, l'obiezione più intelligente che ho sentito è: vabbè, ma se un manager è bravo nella pubblica amministrazione deve poter guadagnare quanto guadagna il privato, fermo restando che io non capisco, con tutto rispetto, alcuni capi di Stato Maggiore dove andrebbero, ma insomma, ha un senso questa obiezione? Allora, intanto io vorrei che ci godessimo per un attimo il bellissimo momento che stiamo attraversando. Cioè, noi siamo sempre abituati a darci la zappa addosso, però apprezziamo il momento, finalmente abbiamo una cosa importante, abbiamo dei dati e della trasparenza, e questo viene fuori non a caso, lei l'ha detto all'inizio, ma perché c'è stata una decisione governativa.

ha la bellezza del 2% di prodotto interno lordo, cioè circa 32 miliardi di euro, che vuol dire che se lei trovasse questi sprechi, lei potrebbe comprare tutte le stesse bottiglie d'acqua, gli stessi computer, le stesse barelle per gli ospedali, le stesse siringhe e spendere 32 miliardi di euro senza diminuire i servizi. Hai voglia come gli aumenti i servizi. Allora, ma tra l'altro devo dire che il costo standard del processo federalista, del disegno di legge sul federalismo, era la cosa che più mi convinceva, era solo sulla sanità, se non ricordo male, ma andrebbe applicato a tutti, cioè la bottiglia d'acqua della pubblica amministrazione deve costare uguale per tutti, a Reggio Calabria, a Milano, a Ministero della Difesa. Come fa a scoprirlo? Ovviamente ha bisogno dei dati. Cioè lei deve essere in tempo reale, lei, primo ministro, presidente del Consiglio dei Ministri, deve avere un cruscotto davanti a sé, che in tempo reale le dice che a Palermo, in quel particolare momento, stanno comprando la bottiglia d'acqua a un prezzo al 50% più basso che a Bolzano. E cosa fa immediatamente? Immediatamente dice a Bolzano, fermo un attimo, questa gara non la chiudere, perché a me non mi sta bene che tu la vai a chiudere. Queste cose che sembrano fantascientifiche ci stanno in tutti i paesi che si rispettano. Io sono andato in Messico, sono andato in Corea, in tempo reale loro hanno tutti i dati. Lei sa dopo quanto tempo noi, la nostra autorità dei contratti pubblici, riceve dalle stazioni appaltanti italiane i prezzi a cui chiudono i contratti? In media con un ritardo di 3 anni. E allora, allora lei basta che con uno schiocco delle dita si prenda una piattaforma informatica identica a quella che hanno tutti i paesi civilizzati al mondo, lei in quel momento ha tutti quelli che comprano determinati beni, determinati servizi. Ora attenzione, dobbiamo chiudere. Attenzione, mi raccomando, non bloccate quelli che comprano a dei prezzi più alti, perché a volte quelli che comprano a prezzi più alti, esattamente come per i dirigenti, stanno comprando delle cose di qualità, e quelli comprano a volte a prezzi bassi, che hanno fatto l'accordo corrotto. Quindi lei semplicemente ha bisogno dei dati per poi subito andare a verificare se c'è lo sprezzo. Allora, grazie, come sempre lei è illuminante, grazie quindi sia a Gianni Dragoni che al professor Gustavo Piga, che insegna politica economica all'Università di Roma di Tor Vergata. Questo poi vuol dire spending review, cioè andare a vedere dove stanno gli sprechi. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari. E allora un buon fine settimana a tutti i veri eroi che ascoltano questo programma e a tutte le persone che cercano comunque di andare avanti. Lo so, viene voglia di fare i populisti, però non se ne può veramente più delle volte, e tutto questo emerge solo perché gliel'hanno chiesto. Mai che si fosse sentita una dichiarazione quando i poliziotti non riuscivano a girare con le auto dello stipendio di Manganelli. Un buon fine settimana agli eroi di tutti i giorni italiani, a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche oggi in redazione e anche questa settimana è in studio. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.